avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Questa mattina volevo farvi iniziare la settimana con una bella trasmissioncina allegra, però temo che non sarà così. Oppure sarà così, dipende da voi, dipende dalla vostra voglia di scherzare su ciò su cui non ci sarebbe nulla da scherzare. Lasciamo perdere quello che avrei fatto questa mattina. Oggi mi ha colpito un pezzo che vedo in prima pagina di Repubblica, che sarà anche ripreso magari da altri giornali, però mi fa senz'altro riflettere. È Repubblica di giovedì 26 maggio, di qualche giorno fa, però mi è capitata sotto gli occhi questa mattina e quindi mi ha dato un'improvvisa voglia di deriva rispetto al mio argomento primario. Parlava di un rapporto annuale dell'INPS per cui un pensionato su due vivrebbe con 500 euro e all'interno c'è tutta una serie di interviste a pensionati che raccontano come fanno a raggranellare giorno per giorno quei pochi centesimi che servono per far allungare, dilatare questi 500 euro il più possibile perché possano arrivare a fine mese. Vestiti a rate, le offerte scontate, la ricerca degli escamotage per poter sopravvivere. Questo dà una nota additiva forse di mestizia e tristezza perché è ancorata a una realtà rispetto a quello di cui volevo parlare questa mattina. Questa mattina volevo parlare dei secondi lavoretti dei pensionati. Mettiamo assieme le due cose e facciamo un punto, non perché debbano soltanto i pensionati rispondere questa mattina, ma tutti voi avrete un'idea in testa di come riuscire a svoltare, arrivare a fine mese quando non sempre il nostro budget, fossimo noi capitani d'industria o miseri disoccupati, possiamo sempre avere dei problemi. Cosa fareste, cosa immaginereste, cosa vi immaginate, cosa vi inventate ogni giorno per riuscire a far quadrare il bilancio? Se voi siete nella condizione di pensionati, quali sono le maniere per rendervi utili alla società, al di là delle forme canoniche conosciute e a volte anche legalmente riconosciute per mantenervi in vita? Cosa vi inventate per sbarcare il lunario? Anche perché il momento in cui non siamo più ufficialmente produttivi, quindi andiamo in pensione, si crea un grosso trauma per noi. Noi valiamo, esistiamo, siamo ponderati, considerati e ci possiamo relazionare, possiamo avere fascino, possiamo avere relazioni, avere amori, avere dissapori solo in base al ruolo che abbiamo nella società. Il ruolo è determinato dal nostro lavoro, dal nostro potere d'acquisto. Quando non lavoriamo più e su noi si accende la luce rossa in cui si avverte che siamo in riserva di tempo utile e attivo, cominciamo a sentirci fuori posto e al di là di tutto cerchiamo di darci da fare, a meno che il nostro futuro preferibile sia quello di consumarci in panchina. E cosa facciamo allora? 800240024. Le pensioni in Italia sono basse e non è una novità, ma ora arriva anche uno studio mirato che mette nero su bianco cifre ed età dei pensionati. Quasi la metà delle erogazioni, il 46,7%, ha importi al di sotto delle 500 euro. Nel 2010 le pensioni di anzianità sono aumentate del 73%. La crescita ha seguito un anno, il 2009, nel quale a causa del passaggio dei requisiti da 58 a 59 anni a fronte di 35 di contributi, il numero di pensioni di anzianità era stato molto basso. Nel 2011, con il nuovo scalino da 59 a 60 anni e l'entrata in vigore della finestra mobile, si prevede un nuovo calo. Le nuove pensioni di anzianità liquidate sono state erogate soprattutto a lavoratori dipendenti. Ma il dato preoccupante del rapporto annuale dell'INPS riguarda gli assegni pensionistici sotto i 500 euro, che sono oltre 8 milioni, pari ad oltre il 50% del totale. La quota sarà addirittura 79%. Questi sono i dati, ma non rabbuiatevi questa mattina, non è soltanto questo, è soltanto il punto di partenza per capire che esiste comunque un disagio. Al di là delle possibili soluzioni a questo disagio, cerchiamo di capire questa mattina come ci si arrangia situazione per situazione, momento per momento. Nella maggior parte delle occasioni molti, non sentendosi giustamente anziani, sentendosi ancora attivi o avendo la pensione chiuso una delle loro fasi professionali, si ingegnano e entrano nel fantastico e misterioso mercato clandestino degli aggiustatori. Ora, è capitato più volte a me, in una fase in cui non avevo piena consapevolezza delle mie capacità manuali, di affidarmi appunto a signori dall'aspetto rispettabilissimo, capaci in un'infinità di operazioni. Iniziai dall'accoppiatore, quando avevo un cane. Un signore veniva con una valigetta, era esperto nell'accoppiare i cani. In questa valigetta non seppi mai cosa c'era dentro. Aveva una valigetta tipo quella del medico, portava i cani nel terrazzo e dava delle istruzioni e soprattutto diceva a noi padroni di cani di starsene in disparte. Ecco il momento, adesso l'istante, ce la fa, non ce la fa. E quello era già un sistema utile, io da solo non l'avrei mai fatto. Avevo un cane con le gambe molto corte, quindi aveva bisogno di un piccolo supporto manuale. Dopodiché mi affidai a un aggiustatore di abat-jour e di lampade, e ancora non era il tempo che c'erano gli impianti di sicurezza con salvavita, quindi più volte dovetti provvedere all'intero impianto elettrico di casa mia. L'ultima delle mie sfortunate, ma non accadrà mai più, occasioni di rivolgermi ad aggiustatori anziani è quando ho avuto un problema idraulico in casa, non avevo sotto mano nulla di specializzato e di certificabile, quindi mi affidai all'aggiustatore e diciamo sono passati vari mesi e ancora ho il problema ben visibile, ben palpabile, ben tangibile dentro casa mia. 800 24 00 24, siate voi aggiustatori attivi o passivi usufruttuari dell'aggiustamento del pensionato, raccontate la vostra esperienza. Fina, fina! Ho trovato lavoro, vista! Un lavoro fantastico! Ah, figlio mio, che notizia! Che meraviglia! E certo! Dunque, Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione dell'Hotel Caprice mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro listini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menu, i listini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo con un pennarello cancellare gli ultimi tre zeri. E quando cominci? Adesso, non vedi che ho già cominciato? Oh, donna, in cucina! Sì, a far da mangiare! Senti, io dovrei uscire. È una situazione estrema, radicale, naturalmente non potrebbe essere che lo specchio di tutti i nostri vizi e le nostre massime virtù. Vizio di Fantozzi che rimane dispotico anche nella sua versione pensionata, e virtù della povera signora Pina che di tasca sua gli trova un lavoro fittizio, lo mette a cancellare gli ultimi zeri di tutta un'infinità di carteggi con il passaggio dalla lira all'euro. 800 24 00 24. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Da che parte sta lei? Io abito in provincia di Treviso. No, da che parte sta? È un attivo o passivo nel campo del lavorettismo pensionistico? Ecco, sono attivo. È attivo. Cosa allora sa fare? Io faccio l'assistenza fuori dalla scuola, soprannominato il nonno vigile. Ah, con quelle giubbottini fosforescenti? Sì, diciamo così. Sì. Ne ho visti questa mattina due o tre, c'era un ingorgo terribile davanti a scuola dei miei figli, però loro erano molto felici. Sì, guardi, è un modo per avere programmi della giornata, cioè mettere la sveglia alle 7, partire da casa alle 7:30, sono fuori dalla scuola meno 10 alle 8, sto là fino 8:35, 8:40. E nel pomeriggio escono alle 4 e sono là, insomma, quindi... Ma in qualche maniera, cioè, vi danno il giubbotto, vi fanno un corso o siete autonomi e volontari? No, lo fate no, così? No, è un po' complicata la faccenda perché prima era gestita dal comune e ci davano 7 euro al giorno, no? Perché loro dicono 10, ma siccome bisogna fare la denuncia dei redditi... Certo, sono lordi, sono 7 euro. Cioè, la ritenuta da conto. Adesso è cambiato perché è gestita col discorso che i comuni dicono per questi servizi che non hanno soldi, poi magari fanno una festa ogni settimana a bracciole. Beh, adesso è gratis allora. Prego, adesso prendo 6,50 euro. Ah, 50 centesimi meno. Sì, nette. E quindi siamo pari più o meno. Mi piace fare questo servizio. Ma cosa vi danno? Oltre al giubbotto fosforescente, altri accessori? No? No, guardi, lasciamo perdere gli accessori perché gli stivali me li sono comprati, un giubbino, un impermeabile invernale me lo sono comprato. Ma deve essere, diciamo, uguale con una divisa, ognuno si può sbizzarrire? No, uno è vestito come vuole, si mette sopra quei giubini là che è come quelli che abbiamo per legge. Sì, ma quelli ve li passano. E ci danno quello che costerà, va bene, importa. Butta via, saranno 10-15 euro. Lasciamo perdere. Allora, come le dicevo, io faccio con piacere questo servizio perché mi piace stare con i bambini, parlo con i genitori, io sono contento, loro sono contenti. C'è Ma che solo tipo di autorità avete? Voi potete fermare una macchina? Oppure... Lei ha toccato l'argomento. Lo so. No, noi siamo esclusivamente, ci hanno fatto dei corsi abbastanza, e dopo ci vuole anche buon senso, no? Noi siamo là esclusivamente per i bambini, però succede che siamo talmente stressati che addirittura quando io magari fermo qualcuno, se non mi sposto mi mettono sotto. Un giorno me la son presa, che c'erano anche testimoni, ho fermato una macchina, ho chiamato responsabile, sono venuti subito i vigili. E naturalmente la dottoressa là che si è presentata ha detto: guardi che il signore nel momento di servizio ci rappresenta noi. Quindi è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Quasi, a parole, diciamo. Non a fatti. Poi ci sono di quelli che magari gli dico: guardi, qua è divieto di sosta. Ma prima cosa faceva lei, prima di fare il vigile davanti alle scuole? Ero occupato in istituto di credito. Quindi si occupava di no, di ero... facevo quel lavoro là, insomma, non a livello. Va bene, alti. Carlo, purtroppo non la intratterrei volentieri tutta la mattina, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti con Valentina. Valentina, buongiorno. Buongiorno, io volevo riportare l'esperienza purtroppo di mio nonno, che è un ex tecnico radiologo, obbligato ad andare in pensione precocemente a causa di un ictus, e che si è dovuto inventare una A che anni ci è andato? 52 anni, più giovane di me, è come se ci fosse andato 4 anni fa. Sì, purtroppo ovviamente per nemmeno, non è vecchio uno a 52 anni. No, non è vecchio assolutamente. No, può fare quello che vuole. Sì, però purtroppo lei sa benissimo che se una persona accede al pensionamento non può più andare a lavorare comunque sia con i libretti, quindi non poteva neanche andare in una clinica privata, non poteva più esercitare, anche perché l'ictus gli ha provocato dei danni inizialmente abbastanza seri. Che vabbè, poi, aveva dei problemi, sì. Non poteva fare il radiologo, ecco, non poteva fare il tecnico radiologo. Allora, a distanza di qualche anno, non appena si è ripreso, si è inventato una professione, ovvero porta dei sacchi di pane da 10 kg in giro per le campagne, vendendoli appunto a chi ha del bestiame. Ah, del pane vecchio, come mangime? Sì. Esattamente, pane secco che lui la mattina alle 6 va a prendere in un forno, quindi tutto il pane... Che tanto lo buttano via, diciamo. Sì, infatti, che dovrebbe essere buttato via. Questi sacchi da 10 kg, lui se li carica nel suo mini furgoncino. C'ha un appetto, c'ha un furgone, sì. Sì, un piccolino. Ma diciamo, fa una lavorazione a questo pane, lo tritura oppure lo porta così, tale quale? No, no, lo porta così com'è. Quindi non c'è nessuna lavorazione. E questo gli dà un buon guadagno? No, anche perché diciamo che nel suo camioncino ci stanno circa 8 sacchi. Ogni sacco costa 10 euro. 80 comunque, euro a viaggio? Sì. Sì, però non lo paga nulla. Non lo paga nulla, è tutto guadagno. No, lo paga 3 euro. Ogni ah, 3 euro fa... vogliono. Ah, 3 sì. euro lo vende a 10, 7 euro. Ah, ecco, 70 euro... 70 euro, vabbè. Sì, all'incirca, però bisogna anche calcolare che la benzina della petto. La benzina, il pranzo, il caffè fuori. Però la cosa più bella è che non sempre viene pagato con dei soldi, ma inizia il baratto. Quindi c'è il contadino che magari gli dà il salame, chi invece gli dà una cassa di frutta e verdura appena colta dal campo. Comunque riesce a sopravvivere con questo, diciamo, sistema di professione alternativa, si è inventato anche questo. Anche perché se lei calcola che mio nonno prende 480 euro di pensione, l'affitto costa 500 euro, più bollette e cibo, per fortuna. Comunque è una persona che si arrangia, non si è dato per vinto. Giuseppe. Pronto? Lei cosa fa? Sono qui da Corte Emilia Cuneo. E cosa fa lei? Io da quando una ditta di consulenza internazionale ha fatto un truschino siamo rimasti fuori, io faccio varie cose, però quello che mi piace di più è utilizzare per esempio qualche competenza nel giardinaggio, per esempio anche per curare cani, gatti o al limite anche bambini di amici. Diciamo, lei ha fatto un pacchetto completo che va dal geranio al ragazzino, passando per il cane, il gatto, il pesce, il canarino. Esatto, la cosa è avere amore verso qualcosa, allora da quello ti dà una mossa che puoi farlo volontariamente. Sì, ma l'amore ha un prezzo di mercato, ha un valore. Sì, sì, vabbè, c'è da 10 a 20 euro all'ora per la seconda, se poi anche fai giardinata. Ma vale più un bambino o un cane dal punto di vista, diciamo, del prezzo della custodia? Ovviamente molto più un bambino, però il problema è essere molto più per referenze. E come si fa a farsi le referenze? Delle lettere? No, beh, adesso c'è il Facebook, attraverso gli amici, poi anche i bigliettini nelle panetterie, però devi avere le referenze. E cosa c'è scritto sul bigliettino? Mi occupo di tutto, dai fiori ai bambini. No, vabbè, a seconda dei momenti, per esempio d'estate è molto importante curare le piante sui terrazzi, oppure cioè quando vanno via le famiglie che non hanno voglia di avere gli impianti automatici. Secondo lei, guardi, questa è una domanda anche per dare un senso a quello che stiamo facendo stamattina, che non sono solo storie. Se ci si organizza, ci sono delle maglie in cui ci si può infilare e si possono trovare delle forme di sopravvivenza alternativa senza incorrere nel rigore della legge? Senza... No, ma adesso con i voucher non c'è più sto problema della legge. Se uno vuole essere anche dipendente pagato da una società formale, con i voucher postali da 10 euro che ne incassi 7 alla posta, è tutto regolare, non inficia la pensione. Quindi c'è possibilità per poter fare un'attività di sostegno senza portare via lavoro a nessuno, ma anzi, no, andando a cercare delle carenze di servizio? Certo, in Italia è pieno di cose che hanno bisogno, cioè poi si tratta di fare più o meno affari, nel senso di avere più o meno proventi. Però cioè, è pieno, basta guardare. Lei a fine mese quanto riesce a fare con questa sua attività e quanto tempo le porta via? Ma io per esempio faccio un po' saltuariamente, diciamo che devo si organizza il suo tempo come vuole. Sì, ma diciamo che sul 1000 euro al mese è facilissimo, perché basta avere un po' di tecnica. E faticando quanto? 1000 euro al mese, quante ore di media al giorno? Ma diciamo 2 o 3 giorni settimanali. Quindi diciamo le generazioni a 1000 euro che vanno in piazza, adesso nessuno si offenda a strapparsi le vesti e a protestare, con tre ore a settimana lei porta a casa 1000 euro senza nemmeno ammazzarsi. Sì, ma tutto ufficiale. Tutto ufficiale, senza fare nulla al nero, nel piena osservanza delle leggi. Quindi ci sono delle maglie in cui ci si può muovere sicuramente. Grazie mille. Feliciana. Buongiorno. Pronto? Sì, l'ascolto, Feliciana. Allora, io faccio volontariato dal 2004. All'AUSE e faccio pratiche amministrative per persone malate, anziane, che non si possono muovere, che non hanno nessuno, oppure hanno figli che lavorano e non possono chiedere. Ecco, volontariato è una bellissima cosa, ma questa mattina vogliamo parlare di lavoro. Come lavoro, io lo faccio... viene pagata, ecco. Lo faccio come lavoro, ma senza essere pagata. Perché? Se non è pagata non è lavoro, scusi. Allora, volontariato è un'ottima attività. Allora, scusa, ascolti, fino a ci hanno dato dei rimborsi di 4 euro, fino a siamo indietro di 13 mesi, a febbraio il sindaco ha detto che non avrebbe dato più niente, neanche 4 euro, se volevamo fare volontariato potevamo farlo, ma gratis. E io ho detto, vabbè, lo faccio uguale senza problemi. Vabbè, questo le fa onore e la porterà dritta in paradiso, però no, questa mattina... Sì, magari. Penso di sì, no. Se non ci va lei che fa il volontariato, che ci deve andare, scusi. No, assolutamente, c'è gente che è più brava di me. La modestia è una dote in più per andare ancora più veloce in paradiso. Ma detto questo, mi interessa sapere se in questo campo, visto che siamo circondati da badanti, e se una badante tu gli dici guarda da oggi non mi va più bene, te ne puoi andare, ti fa un bel sorriso, dice ne trovo 50 che sono in lista d'attesa. Esiste secondo lei un margine di professione, di appoggio e di integrazione per un pensionato, per una persona che ha bisogno, al di là del suo comune che vuole che glielo faccia fare gratis e per volontariato, ma esiste la possibilità di fare del lavoro concreto, retribuito, regolare nel suo campo? Nel mio campo non lo so, ma nel mio personale, dove faccio io parte l'AUSE, il filo d'argento, non esiste. Prima ci davano 5,16 euro, ma tanti anni fa, compreso l'abbonamento. Poi ci hanno tolto l'abbonamento e ce l'hanno portato a 4 euro. adesso senza neanche 4 euro. Però io per umanità delle persone che hanno bisogno, no. Vabbè, lei è in un altro tipo di però ottica. Però non esiste aiuto a persone anziane. Giusto, c'è il municipio, che si va al municipio a far presente la situazione della persona malata, della persona che ha bisogno, ma tocca aspettare anni e andare a rompere le scatole in continuazione. Sì, ma era un altro tipo di discorso. Comunque, è comprensibile che Feliciana è una signora che in realtà appartiene a un'altra categoria. Lei ormai può farlo anche semplicemente come attività, non è interessata probabilmente a crearsi un'attività concreta e lavoro come gli ascoltatori che hanno chiamato finora. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Per il personaggio del giorno siamo qui a Milano per intervistare il signor Menelao Guardabassi. Che cosa fa di bello su questo barcone? Non vede, viaggio. Ogni tanto mi danno un passaggio e mi faccio una crociera a gratis. Lei è pensionato, non è vero? Sì, io ho la pensione. E si può dire a quanto monta la sua pensione? Prendo 32.000 lire al mese. E come fa? Non mi lamento. Ogni mattina alle 7 in punto, tac, sveglia. Salto su, una bella boccata d'aria. Signora, la chiave del rubinetto. Direttamente alla fonte. Qui c'ho tutto il mio bel necessaire. Lo spazzolino da denti. Le mani invece me le lavo con questo. Sa cos'è questo qui? Non è mica una saponetta, questa qui è la carta gialla, la paglierina, quella del negoziante. Molto meglio del sapone. Le saponette di oggi, non si sa mai quello che ci mettono dentro, invece questa qui è una roba, guardi. 800 24 00 24, stiamo parlando di arrotondamento del budget del pensionato, dalla notizia che mediamente in Italia un pensionato su tre vive con 500, un pensionato su due, scusate, vive con 500 euro al mese. Stiamo cercando di capire come facciano a tirare avanti. Abbiamo già avuto varie testimonianze di persone che comunque usano costruttivamente l'arte di arrangiarsi, usano al massimo tutta la normativa che gli permette di fare qualcosa nella piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, ma questa icona che ci viene dal passato di questo film Signore e Signori Buonanotte, il signor Guardabassi interpretato da Tognazzi, un terribile pensionato che in realtà non fa nulla, in realtà compie un'operazione di rosicchiamento delle miserrime possibilità che riesce ancora a avere a disposizione per vivacchiare, e si accontenta e si compiace e quasi si pasce del proprio quotidiano squallore. Ma scusi, lei non ha neanche il materasso? È bravo, è il primo posto che gli altri vanno a guardare. Mi sbaglio o in questa stanza non ci sono finestre? Meglio, no? Così d'estate non entra il caldo e d'inverno non entra il gelo. Temperatura costante come nelle cantine. E pasteggia a sciroppo? Eh già, e così come può constatare io finisco la mia giornata in attivo. Dunque calcoli questo fatto, 500 lire al giorno per il mangiare, no? In un mese fanno 15.000 lire. Il mese di febbraio, poi ne ha 28, così mi posso prendere. Poi è terrificante, al posto del vino beve lo sciroppo che si fa dare da una suora e poi diluisce nell'acqua. La sua l'unica abbandono alla concupiscenza, andare una volta al mese o all'anno, quando ha la tredicesima, da una vecchia caldarrostara che lo soddisfa manualmente facendogli scegliere la mano sinistra quella ghiacciata, con la destra quella calda con cui gira le caldarrosto. Lui sceglie sempre la sinistra, e per poche centinaia di lire sotto il cappotto, quello è la sua vertigine e sensualità. Danilo Masomasotti, buongiorno. Buongiorno. Allora, Danilo Masomasotti è un esperto, anzi è l'antropologo che ha identificato una delle classi trasversali alla nostra società, più presente non soltanto in tutta Italia ma in tutto il mondo, che è quella degli Umarels bolognesi. Poi questa mattina, Danilo, volevo, se fosse possibile, visto che ormai sei conosciutissimo anche dal nostro pubblico, che tu estendessi, portassi ormai la categoria dell'Umarel a un rango internazionale. Cerchiamo di capire il pensionato, l'umarellaggine internazionale. Secondo te, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, quali chance ha dalla sua per poter sopravvivere entrando nei meandri dei luoghi non presidiati, delle professioni non sufficientemente frequentate nella società? Allora, nell'Umarell vedo invece delle enormi possibilità, ovvero l'Umarell può insediarsi nelle nicchie di lavori che i giovani non vogliono fare e soprattutto non sanno fare. Non sanno più fare, esattamente questo. Non sanno più fare, quindi qua parlavamo, allora c'è una fetta di umarellismo comunque che è risucchiata dal volontariato, come già emerso dalle... Però hai sentito le telefonate? Li sfruttano, gli danno poche lire, non gli danno mai nulla, li fanno aspettare. Sì. Sono un po' come i giovani stegisti comunque, no? Cioè, insomma, sono un po', c'è questo parallelismo. Però l'Umarell che monetizza è quello che sa fare una cosa che i giovani non sanno fare e non vogliono fare. Facciamo degli esempi, categorie. Professioni più gettonate. Allora, non so, sono professioni che hanno a che fare, non so, con l'elettricità. L'Umarell in realtà magari non sa aggiustare un impianto elettrico, però si applica e si impegna e guadagna. Non ha nessuna cognizione di un impianto elettrico a norma, delle nuove tecnologie, non sa nulla. Ancora usa il fil tubo e il nastro isolante, quello gommato probabilmente. Sì, poi anche incolla con il nastro isolante, lo sputo, insomma utilizza queste tecniche. Il rischio cortocircuito è notevole, se non ci fossero i salvavita, l'ho detto all'inizio della trasmissione, gli impianti ritoccati da Umarell sarebbero delle sedie elettriche per tutta la famiglia. Sì, quindi gli Umarell fanno questi lavori che hanno imparato guardando gli elettricisti, di solito. Altra professione molto, molto in voga tra gli Umarells è quella dell'imbianchino, dare di bianco alle pareti delle case. Qua dicono la romanella significa fatta male, fatta alla cavolo, capito? Sì, no, ovviamente la professionalità certo. non è un requisito, perché chi chiama l'Umarell vuol risparmiare. Vuole risparmiare, l'Umarell vuole arrotondare, quindi sono domande e offerta che si incontrano. Quindi usa le tinte, costano meno, ancora la vecchia tinta polvere acqua, ci mette un sacco di tempo, sporca tutto... Sì, poi adesso, mentre una volta l'Umarell si riforniva principalmente dalle ferramenta, che erano carissime, adesso invece sono stati creati proprio delle mecche, dei templi per Umarells, questi grandi, tipo l'eroe Merlin, Castorama, così per fare un po'. Sì, ma c'è anche un altro luogo che mi meraviglio che ancora non è citato, che è il luogo delle mie delizie, i cinesi. Ah, sì, no, certo, anche quello. E poi altri lavori... Dove costa ancora meno la roba, ma ancora meno di sicurezza, perché se prendi una presa, un filo antenna, così, anche lì l'odore di cortocircuito si sprigiona dopo pochi istanti. Sì, no, questi sono... Io ho preso l'attrezzino per ricaricare l'iPad dai cinesi, mi è durato 25 minuti, poi cominciava a esserci un odore di cortocircuito per tutta casa. Senti, poi altri lavori che ci sono volantinaggio, pubblicità nelle buchette. Questo è un'attività che è retribuito fatta. Questo lavoro è retribuito, sì, con le cifre che abbiamo sentito prima, forse anche meno, e qua però c'è concorrenza straniera. È perché io vedo solo stranieri a fare questo lavoro, ci vuole un po' di faccia tosta, bisogna eludere il portiere laddove ci sia un portiere, bisogna avere la faccia tosta di suonare un campanello a caso, se non c'è il portiere dire signora mi fa entrare, e una dice perché, non so se l'Umarell ha queste capacità. L'Umarell però ecco, questo lavoro lo fa controvoglia perché la pubblicità comunque è un nemico per lui. Qua si vende l'anima al diavolo per lui. Ecco. Sì, vende l'anima al diavolo, però insomma per arrotondare questo ed altro. Però ci sono altre professioni che hanno a che fare con la natura. Quindi qua a Bologna ci sono molti orti gestiti da Umarells che gli Umarells stanno lì tutto il giorno, preparano i loro prodotti e li rivendono. Adesso poi per loro è un momento di grande fortuna inaspettata con il terrore per il cetriolo spagnolo, il cetriolo bolognese dell'Umarell sarà su tutte le mense sicuramente. Sì, su tutte le mense, poi sono ottimi perché questi orti sono di solito piazzati vicino alla tangenziale, quindi sono prodotti rigorosamente... Al monossido di carbonio assicurato. Ecco, poi altre professioni, vabbè, ci sono delle professioni che hanno a che fare con lavori che facevano prima, tipo... riparatore di serrande, ad esempio. No, factotum di un'aziendina. Ci sono aziendine che hanno bisogno di persone da pagare poco perché vadano a fare, non so, delle file in porta. Sì, le portare le bollette, le fatture, esatto. Queste cose qua. Il factotum, il galoppino d'azienda. Galoppino così. Se fermiamoci un attimo, Danilo, sentiamo qualche ascoltatore. Alfio, buongiorno, ex marittimo in pensione. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Di cosa si occupa lei? Dunque, io sono un ex marittimo, come hai detto, posso darti del tutto, tanto abbiamo quasi la sì. Stessa età. Sì, la salsedina ha provato le sue corde vocali, sento, sì. Sì, e fumo anche le sigarette. Bravo, fa bene la salute, sì. Avanti. Senti, sono in pensione, niente, mi occupo di rigenerazione delle cartucce, dei toni. Tanto per rimanere nel campo della salute. Sì, no. Lo sa che respirarle non è che faccia proprio bene. No, ti spiego, non lo faccio io, diciamo... Sono gente di zona, ecco. A lei le recupera e le porta al rigeneratore? Fanno, sì. È un bene anche per l'ambiente, perché se mi dai un toner, lo rigeneriamo, non va buttato nella spazzatura. Quindi lei fa il giro di tutti gli uffici, le piccole imprese, sì, dove ci sono cartucce. Sì. Si fa dare le cartucce vuote, le porta al rigeneratore e le riporta piene. Bravissimo. Una piccola percentuale, ma qualche boccatina di toner se la fa però in tutti questi passaggi? No, non le faccio io. Oh. Capito, le porto in studio. E quanto alza al mese con questa attività? Oh, poco, un paio di cento, 300, ma... 300 euro al mese? Cioè, tolte le spese? Bisogna... Sì. Ah, al netto 300 euro? Sì, però sta all'aria aperta, gira, parlo, vede gente. Conosco. Va bene, Alfio, questo è una maniera concreta. Giovanni, cosa fa? Giovanni? Pronto? Ecco Giovanni, lei cosa fa per arrotondare? No, io per arrotondare faccio ancora il commerciante, cioè un negozio di scarpe da una vita, ho 76 anni. È passato alla famiglia il negozio? Sì, ce l'ho io, i muri sono miei, grazie a Dio. Ma quindi non è pensionato ancora, è proprietario? Sono pensionato, proprietario, ma ho la pensione di 585 euro. Però continua a lavorare? Beh, continuo a lavorare, grazie a Dio, mi dà la mia fortuna è proprio quella di avere la salute e la forza. Ma che tipo di attività è esattamente? Qual è la categoria commerciale in cui lavora? Di calzature, pelletteria, ecco. Ah, quindi lei ancora prova le scarpe, cambia, ha l'esperienza? Certo, sì, vecchio stile, non li butto... quello che diciamo, questa è buona, fai vedere la piega, fai vedere che c'è la cucitura, quelle cose lì. Sì. L'addenta, fai vedere che cuoio buono. Un intenditore, grazie a Dio. Poi le dirò un'altra pensioncina però, devo... Sì. Di 2 euro che me la manda l'Empazza, per il fatto che io da bambino, 18-19 anni, ho suonato per pochi mesi, probabilmente sono stati... E quindi anche la pensione d'artista, quindi. Anche la pensione dell'Empa. Butti via, 2 euro, mica uno. 2 euro al mese. Vabbè, però messi sull'anno sono sempre quei 22 euro che uno si fa una botta di vita. Mi ha fatto sicuramente ridere per il fatto dei 30.000 lire, ecco. Sì, la bellezza proprio, la mia... E fortuna è quella di avere ancora la salute e quindi insistere anche per poco. Come diceva Nino Manfredi, quando c'è la salute è un paio di scarpe nuove. Perfetto, sì. Bravo. E lei c'ha tutte e due. Grazie. Grazie a lei. Grazie Giovanni. 800 24 00 24. Tra un istante dopo l'informazione del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. 800 24 00 24. Stiamo cercando di definire cosa faccio in alternativa quel pensionato su due che deve vivere con 500 euro al mese. Abbiamo visto che in fondo le categorie sono abbastanza definibili. Chi si inventa un lavoro che non ha mai fatto, cercando di capire quali sono i bisogni? Chi continua a fare quello che ha sempre fatto, ma se ha la fortuna comunque di avere una piccola attività imprenditoriale familiare e continua a tenerlo perché... come l'ultimo signore che vende scarpe, quindi la sua esperienza diventa il brand stesso del negozio. altri umarella andranno a comprare le scarpe in quel negozio, perché sono quelle che sanno che non fanno male ai lupini, che si possono risolare bene, che tengono l'acqua e che sono fresche d'estate. Sarà specializzato in 2-3 tipi di calzature, quelle in feltro nero, i sandali estivi, quelle aperte di cuoio intrecciato per l'estate. Danilo Maso Masotti, vediamo di aggiungere qualcosa a quello che hai già sentito, un esperto in età pensionabile, l'inventore della categoria antropologica dell'Umarell, autore di vari libri, tra cui Il Codice Bologna, Guida ai fatti, luoghi e persone di una metropoli di provincia, penso che sia l'ultimo. Danilo. Ecco, allora, no, non abbiamo parlato delle professioni femminili. Ah, delle sdaure, che sarebbero sono le sdaure comunque. Le femmine dell'Umarell. Ecco, le femmine dell'Umarell si lanciano in professioni tipo le pulizie, stirare, e poi un'altra professione è quella della preparazione di prodotti alimentari tipici che i giovani non sanno più fare e li rivendono, cioè tipo, non so, fanno dei tortellini e li vendono a negozi che rivendono i tortellini a loro volta. Che però oggi con le regole che ci sono nella confezione e nel vendita dei prodotti alimentari, non so quanto questa catena rientra nelle maglie della legalità. Non credo che una persona possa. No, ecco, no, vabbè, c'è da dire che insomma, gli Umarells comunque, cioè, fanno spesso professioni al nero, illegali, sì, cioè, perché il tortellino fatto la sdaura a casa venduto al negozio penso sia totalmente legale, ci vuole una tessera sanitaria, sì, la somministrazione deve essere fatta in certe maniere, bisogna sapere, no, i prodotti, oppure ci sono delle escamotage tipo bancarelle, cioè, varie sagre, fiere, così, dove in cui omnia licet si può fare quello, esatto, che vuole. Senti, l'attività invece che non esiste più, di rammendo, rifacitura degli orli, via dicendo, ci sono oggi, diciamo, dei negozi che fanno parte di catene riconoscibili e riconosciute. L'umarellismo al femminile si applica in queste pratiche? Sì, si applica in queste pratiche, ma sono richiesti solamente da umarelle. Da sartorie, no? Ah. Cioè, sartorie utilizzano delle sdaure per lavori tipo, non so, le asole, dei vestiti. Ma anche lì probabilmente i cinesi ormai avranno mangiato tutto il settore, perché non sì, esiste più. Poi il rischio è, conferma se sbaglio, molte volte queste attività pensionistiche sono a circolo chiuso, perché i loro clienti sono pensionati, le uniche persone che ancora vanno a farsi rammendare un calzino o rammendare un abito sdrucito sono persone che normalmente la gente prende, butta via, se ne compra un altro. Sì, infatti è un mercato chiuso. E poi, vabbè, poi comunque c'è un'altra cosa che viene fatta comunque tra Umarells è il baratto. Poi, ah no, poi c'è anche il commercio di animali, comunque, animali da cortile. Ancora più illegale questo, perché sì, veramente alcuni cioè, hanno delle galline, conigli, così. Che allevano sempre lungo la tangenziale. Sì, sempre in questi orti ogni tanto si vedono questi animali, poi un giorno uno ripassa nell'orto e non ci sono più, ecco. Fermiamoci un attimo, Giuseppe, buongiorno. Giuseppe. Buongiorno, mi sente? Lei è un maresciallo dei carabinieri in pensione. Sì, ma io non sento nulla al telefonino, sto parlando con la radio un po' a distanza. Vabbè, comunque racconti cosa sì, faceva lei? Lei faceva il maresciallo? Sì, allora io vorrei azzerare i 176 miliardi di euro di evasioni annuali. È un bella impresa. Non mi riferisco ai pensionati come me che pagano tutto alla fonte, quanto pagano dalla pensione, eccetera, eccetera. Mi riferisco ai signori autonomi che dichiarano 6.500, massimo 7.000 euro, vabbè, e poi. Ma questo come lo trasforma? Paesini, maggiormente si sa che Tizzeccaio c'ha 2-3 ville, c'ha maresciallo, lo scafo, vale Maldive 2 volte, 3 volte. Maresciallo, come lo trasforma questo in un lavoro? Questi marescialli dei carabinieri, della finanza, della polizia, della forestale, in pensione. Faccio questa scelta per questione di fiducia e di istituzione. Potrebbero occuparsi degli evasori. Dovrebbero andare volontariamente, senza interferire sul privato, perché niente, non così di primo acchito andare alle agenzie turistiche, dove si. Vabbè, abbiamo capito, maresciallo, la devo segare, perché se non c'è interlocuzione, lo so, mi spiace, so che è un gesto che mi costerà grave, ma non sentiva e non sentendo non posso gestire la trasmissione, quindi è un danno per chi ascolta. Mario. Sì, Mario. Pronto? Ecco, vediamo lei se riesce a far capire cosa può fare. Sì. Spero mi senta perché sono in macchina. Sì, non vorrei farle fare la fine del maresciallo, e se non mi si sente non posso andare avanti. Lei mi sente? Sì, io lo sento bene. Allora, lei cosa fa per arrotondare? Siamo in conclusione. Ma intanto sono in pensione. Ho capito. Aiuto, o meglio, assisto i laureandi a fare le loro tesi. In che disciplina? Qual è la sua disciplina? Molteplice. La mia disciplina di base, d'origine, è medico. Io sono un chirurgo. E in cosa li aiuta? E però gli aiuto a far tesi in scienze politiche, in lettere, tutto ciò che non sia matematica, fisico, chimica. Diciamo ambiente umanistico. Ambiente umanistico. Un medico che, diciamo, ha una predilezione per le tesi ambiente umanistico, dato il livello medio della qualità delle tesi di laurea odierne, soprattutto nelle facoltà umanistiche, penso questo sia un buon aiuto. Si farà pagare, non voglio sapere come, non voglio sapere in che maniera, comunque la buona volontà è all'ordine del giorno. Grazie, 800 24 00 24, però chiamate domani che oggi abbiamo finito. Grazie a Valerio Rocchetti e a Fabrizio Intonti. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.